Ma Milan mi sembra sia... Lascia stare quest'anno, che poi domani c'è il derby, apriamo altre storie. Però, sai, si dice sempre, ah, beh, anche Gagliani l'altro giorno ha detto, ma i derby che sento di più comunque sono quelli europei, questi di campionato, poca roba. Ma come vai, come mai in Europa così bene, ma per tutta la stagione, non solo adesso, e in campionato non così bene, insomma? Ma una domanda che ci siamo fatti tutti, che mi sono fatto spesso, che mi sto facendo tuttora e alla quale purtroppo non riesco a dare risposta. Non riesco a dare risposta perché in Coppa abbiamo giocato sempre molto bene anche in trasferta, invece in campionato spesso in trasferta giochiamo molto male, indipendentemente dal fatto di vincere o perdere, ecco che insomma è anche una diretta conseguenza, però si può anche magari vincere una partita come a Pesaro non giocando benissimo, però fare quelle due o tre cose che ti permettono di vincere. Invece nella stragrande maggioranza delle occasioni abbiamo proprio giocato male, non abbiamo neanche avuto la lontana possibilità di provare a vincere alla fine. Ma cosa dire, sicuramente qualche partita persa all'inizio ha minato un po' le certezze di questo gruppo, un gruppo nuovo, un gruppo sicuramente giovane che si stavano creando, e questo ha creato un po' di sconquassi all'interno dell'organizzazione, un po' all'interno delle nostre teste, all'interno della fiducia che ognuno ha in se stesso e che ha nei confronti dei compagni. Viceversa, in Coppa siamo partiti subito bene e questo sì, ci ha facilitato. Poi, perché la Coppa non è riuscita a trascinare il campionato, non lo so, ecco, però potrei dire come mai il campionato poi non ha trascinato negativamente la Coppa. Sì, no, certo. Diciamo che certo, un aspetto certo positivo è che sicuramente siamo riusciti a tenere distante l'una dall'altra. E sì, questo ci ha consentito di essere dove siamo in Eurolega, in Eurocup, e comunque con un paio di partite vinte giuste ora da qui alla fine di essere in una buona posizione anche in campionato. Ultima pausa, quella per il traffico in questi giorni particolarmente intenso. Palla spicchi. Nel momento di, a questo punto, di nel farvi gli auguri, prima di parlare dell'evento dell'anno, di ricordarvi, anzi di dirvi come si fa a vincere la Smart Box di qui sopra, di cui abbiamo parlato all'inizio, un regalo natalizio che vi facciamo. Come si fa a vincerlo? Ebbene, il primo che invia un messaggio con la scritta Smart Box al nostro numero per i messaggi 349-238-6666 si porta a casa questo premio, questo viaggio, pausa e avventura. Dunque, via, da questo momento. Intanto, mentre scrivete l'SMS, io vi voglio parlare, per chiudere, prima di farvi gli auguri, dell'evento cestistico dell'anno, cioè il ritorno del nostro amico coach Dan Peterson sulla panchina, che ritorno che il 7 gennaio ha provocato un meraviglioso terremoto nel mondo dei canestri. Vi facciamo riascoltare la voce di Dan Peterson, abbastanza irriconoscibile, in quei giorni. Ciao ragazzi, Mr. Sportivi, buongiorno a tutti. C'è qui l'altra metà della mela di quella panchina storica, Franco Casalini, per salutarti. Ciao Franco. Ciao Dan, un po' che non ci sentiamo. Sì, ci siamo sentiti ieri sera, Franco è lì alla Sky Sport 24, mi ha chiamato. Ciao Francone. Ciao Danielud. Come stai, coach? Oh, bene, un po' stanco per la verità, diceva Franco ieri, cioè, già non dormivo, adesso che l'ormani mi ha preso dormo di meno se è possibile, però cosa devo fare se proprio bisogna vincere, ok? Senti coach, ti sarai accorto che tutti, ma proprio tutti in questi giorni parlano di te, parlano dell'Armani, parlano del basket, questa è già una vittoria, è già un trionfo, più di quello con Caserta. Meno male abbiamo fatto due punti con Caserta, perché le vittorie mediatiche sono come vittorie Pirro, hai capito? Cioè non contano più di tanto, quindi abbiamo vinto la parte mediatica, adesso vediamo se possiamo fare con la cestistica. Senti Franco, ma appunto tu sei stata l'altra metà di quella panchina storica, quando ti hanno detto che Dan Peterson tornava, la tua prima sensazione qual è stata? La mia emozione, la tua? Beh, ovviamente sorpresa, ma subito dopo felicità. Infatti l'ho chiamato subito e non era ancora deciso, mi ha detto ma guarda che non è ancora vero niente, però nel qual caso gli ho detto sarei il primo tifoso tuo, non dell'Armani, perché per dovere istituzionale sono equidistante da tutte le squadre, ma fai conto che ti volti e non mi vedi, ma è come se fossi lì quando sei in panchina. Hai sentito, coach? Senti, ma è vero che non hai cambiato niente dal punto di vista tattico, forse, nella partita dell'altra sera? No, perché avevo un solo allenamento, io non volevo fare rivoluzioni. Io vedo tante volte un allenatore subentro per un altro, cerco di mettere dentro 100.000 cose e la squadra va in fioti. Facciamo le cose che sapete già fare, che sono state anche abbastanza efficaci per battere Valencia, Cesca, Mosca, Cesca qui a Milano, altre buone partite, cerchiamo di farle come avete fatto con le partite reali. Senza rivoluzione, senza shock, senza terremoto. È però vero che hai cambiato gli occhi della squadra. Scommetto che gli hai chiesto, come hai detto tante volte a questi microfoni, di aggredire quel canestro, infatti 98 punti. Ho detto quello, ma anche solamente giocare insieme e sputare sangue, tutto. Non è che io dico a tutti che non vedo il basket tanto come scienza, ma più come arte, e quindi è proprio una cosa che viene da dentro, proprio non dal cervello ma da altre parti del corpo. Franco, cosa ti aspetti da Dan Peterson a Milano? Mi aspetto quello che è già successo, ovvero sia il riaccendersi di un entusiasmo che sembrava non dimenticato, ma certamente, diciamo, sotto traccia, e invece adesso viene fuori in tutta la sua grandezza. E non credo che sia nostalgia, perché a parte il fatto che l'altro giorno al forum c'erano moltissimi giovani che forse non erano neanche nati quando Dan ha deposto il fischietto, diciamo così, ma la leggenda, il mito, il nome, a parte il fatto che è stato sulla bocca e nelle orecchie di tutti per 24 anni, fra televisioni, radio, presentazioni, serate e compagnia bella, quindi è uomo, diciamo così, noto a tutti, ma il fatto di rivedere lui in quella veste, fra l'altro complimenti per giacca e cravatta, perché onestamente della tutina io non ero tanto contento, ti confesso, ma rivederlo con le sue movenze che erano quelle là, insomma, è stata un'emozione enorme. Franco, tu sarai orgoglioso di me, perché oggi Livio Proli mi ha portato al negozio di Armani qui proprio in centro. Non avevo dubbi. E vedrai la prossima partita, ragazzi, spacco tutti. Non avevo dubbi. Ascolta Dan, una curiosità, tu non hai mai preso una squadra in corso, d'opera, hai sempre cominciato la stagione. A me è successo un paio di volte, devo dire che è un'emozione fortissima. Tu come l'hai, da questo punto di vista, come l'hai provata? Ma è molto difficile, perché devi, come dicevi tu, Carlo, vedere i giocatori, proprio conoscere loro, vedere i loro occhi, quelle cose lì, comunque è esattamente, Franco, così, cioè è differente, esatto. Perché lì hai già parlato con tutto con calma, qui non c'è calmo, niente, c'è bisogno avere un risultato. Poi quando cominci la stagione cominci a giocare fra un mese, adesso invece cominci la stagione e domani giochi. Ho fatto allenamento martedì, partita mercoledì, non c'era molto scelta. Andrai avanti con Jabber Playmaker e Finley cambio delle guardie. Well, io, Franco, mi conosce in questo qui, cioè, la mia squadra adesso è questa, cioè, ovviamente nei tempi di oggi non è come i nostri tempi, cioè, quando non c'era lo svincolo con le cose del marcato, del chiuso, eccetera, qui è possibile tutto, ma per il momento io sono l'allenatore della squadra, io non sono la società, ognuno ha la sua stanza che dove deve lavorare, io lavoro fra i 28 e i 15, tutto lì, ovviamente loro vedono le cose a 360 gradi, e cerco di non pestare i piedi nessuno. Come sono andati gli scivolamenti stamattina? Abbiamo fatto, Franco, 2 minuti di scivolamento. Ah, beh, roba da ridere. La metà del ritmo. Abbiamo fatto tuffi, abbiamo fatto mai. Non tuffi, abbiamo fatto palla, abbiamo fatto mai questa mattina. Per tutti gli esercizi che tu conosci. Sì, okay? sì. E qualcuno magari dice, che cosa è successo, però l'hanno fatto senza storia. Okay? E tiri liberi, se fa 2 su 2 non si corre. se uno sbaglia uno dei due libri si fa un suicidio, fai conto che tutti hanno sbagliato il primo libro. È diverso, come sai, uno è cominciata la cura ufficialmente allora. oggi forse più che l'altro ieri. Senti Coach, qual è la difficoltà più grande che hai trovato in questi giorni? Volevo far combaciare tutto, cioè volevo essere disponibile al mass media, allo stesso tempo fare allenamento, conoscere la squadra, lo staff tecnico, di tutto, cioè tutto li puoi immaginare, 100.000 cose che generalmente le fai in un mese, le ho dovuto fare in 24 ore, quindi è stata lì la difficoltà di far combaciare tutto. Io ti faccio un'ultima domanda, che è quella a cui tengo di più: quando torni qui? Ma io penso che posso sempre fare, ok? Non ho problemi, se non devo parlare Serie A, io sono disponibile per tutto. Ok Costi, ti mandiamo un abbraccio forte, io e Franco Casarini e tutti gli ascoltatori. E ciao Franco. Ciao Daniele, a presto. Ciao Coach, grazie davvero Coach Dan Peterson. Franco, questo ti piacerà. Ieri si giocava a calcio, ieri sera abbiamo fatto tanti speciali sul calcio, l'ultimo dei quali dalle 11:30, no, dalle 10:30 alle 11, e mi mandavano i messaggi: ma la smetti di parlare di Inter? Quando cominci a parlare della vera grande notizia di questa stagione, Dan Peterson che torna, altro che Leonardo, Dan Peterson che torna sulla panchina. Milano da bere ancora. Sì, ci sentiamo tutti un po' più giovani, non so tu. Ma guarda, io sono in un turbinio di sensazioni, perché da una parte devo stare compos mei, cioè stare molto tranquillo, perché faccio un lavoro che richiede la massima obiettività e la massima imparzialità, e dall'altra invece è come se mio fratello maggiore, mio fratello, non mio padre, perché mio padre lo considero Rubini, però mio fratello maggiore fosse tornato, fosse lì a fare delle robe per le quali naturalmente palpito. Ma non ti ha sorpreso quindi tutto l'attenzione mediatica che c'è stata intorno a questa notizia? Quando ho saputo la notizia ho pensato domani sarà il titolo della Gazzetta, mercoledì ci sarà il tutto esaurito al Forum, non avevo dubbi in proposito. Avete dovuto vincere una Coppa dei Campioni storica a Losanna. La prima a Losanna, che tornava a Milano 21 anni dopo per finire lì sulla prima pagina della Gazzetta e rimanerci per alcuni giorni, come ha fatto Coach in questi giorni. Modestamente correggo, l'ultima prima pagina era Gand, cioè quando l'ho vinta, quando ero allenatore. Giustamente. E chiudiamo qui questa puntata prenatalizia, non mi resta che farvi tantissimi auguri di buon Natale. Per gli auguri di buon anno invece ci risentiamo tra 7 giorni con Buoni e Cattivi, avrete già capito, sarà con noi Mario Boni per festeggiare insieme il Capodanno. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Valeria Bernardi in regia. A domani.